Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Noi siamo i funamboli, signori, ma anche voi, cari ascoltatori che fate le vostre manovre nel traffico per iniziare le vostre giornate. Cara Veronica, buongiorno, eccoci qui. Buongiorno mio caro, come andiamo? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Oggi sono rinvigorito, sono rinfrancato, è stata una bella serata. Cos'è che ti ha temperato? E andiamo. Rodriguez. Sai, il Milan ha battuto quella che tu chiameresti lo SPAL, invece è la SPAL. Soprattutto con soprattutto due rigori, uno di che si è, signori. Chi, scusa? Che si è. Lo scrittore africano? No. Ah, ho capito. Quello che scriveva con il piano, quello nigeriano. Ivoriano in realtà, Io l'ho letto. Smettila. Tu hai letto Kalinic, hai letto forse Kalinic. No, Kalinic l'ho letto mentre facevo la transiberiana. Sì. Ma durante il mio ultimo viaggio in Africa io leggevo che sì. Signori, siamo lì in alto la classifica. Dai, va bene così. Niente, educazione calcistica, dovremmo riprenderti un po' così, cara Veronica. Purtroppo, vedi, quando devi insegnarmi qualcosa non mi insegni mai niente. Io mi fermo all'educazione sentimentale di Flaubert. Sono fatta così. È così, è la donna di cultura, è la nostra funambola di cultura. Signori, vogliamo dare, intanto salutiamo Peter Bescapè in regia e la nostra redazione di Funamboli, cioè Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Elisa Pancaldi. E poi ci sarà anche Leonardo Manera, ovviamente, che arriverà. Cara Veronica, oggi parliamo intanto di dipendenti pubblici. E sai che l'argomento, perché vogliamo dirlo subito, non generalizzeremo mai. Sono 3,5 milioni, la gran parte di loro sono persone che fanno andare avanti il nostro paese, i nostri uffici, sono medici, lavorano alle poste, carabinieri, forze dell'ordine, vigili del fuoco, chi più ne ha più ne meno, insegnanti. Ale, facciamo una sola generalizzazione, che è quella che quando si ha a che fare in generale con l'apparato pubblico, con lo Stato, con la burocrazia, si cammina sulla fune, perché cercare di barcamenarsi tra tempi, gestioni, logica, soprattutto la logica, è tutto un tentativo funambolico di raccapezzarsi. Esatto, quindi nessuna generalizzazione, però la storia che vogliamo raccontare è davvero funambolica, perché ne parla oggi Massimo Gramellini nel suo editoriale di prima pagina, nel suo caffè sul Corriere della Sera, ne parla Roberto Mania su Repubblica, grande esperto di dinamiche anche sindacale del mondo del lavoro, c'è una mezza pagina su Libero, insomma è una storia che anche noi vogliamo raccontare coi protagonisti. Cioè stai cercando di dire che siamo molto molto sul pezzo e avevamo intuito qual era la notizia del giorno, dillo. No, è che lo so, i titoli magari faranno arrabbiare un po', noi la raccontiamo nei dettagli e da qui vogliamo partire, Allora, dando il numero di telefono 800 24 00 24, cara Veronica, c'è un ex dipendente, anzi no, ex, adesso vabbè, ecco, no, no, già un dipendente delle ex, poste, no? Esatto, che nel 2012, attenzione alle date, agosto 2012, viene accusato di appropriarsi di 15.000 euro più o meno delle poste, ok? Sì. Nel 2012, per questo viene denunciato e tra l'altro nel 2016, primo grado, viene condannato, quindi dal punto di vista penale, viene condannato credo a 9 mesi per appropriazione indebita. Vogliamo dire anche tramite delle intercettazioni telefoniche, per cui con delle prove già allora abbastanza così tangibili, come dire. Ecco, già mi correggo, 1 anno e 9 mesi, quindi dipendente, condannato in primo grado, 1 anno e 9 mesi. A quel punto, nel 2016, 4 anni dopo l'accusa, le poste lo licenziano. Questa persona ora è stata reintegrata dal giudice del lavoro perché in sostanza il concetto è stato licenziato troppo tardi, 4 anni dopo il fatto presunto. Questa è in estrema sintesi la vicenda, ma l'avvocato Carmine Di Risio, che ha difeso e difende questo dipendente e lo ha fatto reintegrare, è con noi. Avvocato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie di aver accettato l'invito. Guardi che con noi c'è anche Silvia Kranz, che è dell'ufficio procedimenti disciplinari dei comuni della Bassa Romagna e segue anche in tutto 130 comuni per gestire situazioni simili, ecco, diciamo così. Kranz, buongiorno, eccoci. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Eccoci. Buongiorno, avvocato. Allora. Avvocato, ma la prima domanda, lei ha dei poteri paranormali oppure c'era realmente una giurisprudenza che permetteva questo reintegro? No, allora, ce lo dica perché... Compriamo il campo. Sì. Per le poste è una società privata, quindi si applica la normativa prevista per i privati, per cui non ci rientra granché la questione dell'impiego pubblico. Beh, insomma, su questo poi si può discutere. Perché no, è come normativa. È una SPA e quindi è regolamentata come una qualsiasi società privata. Attenzione, quando si gestisce un licenziamento, come insomma facciamo qui allo studio per le tante società e aziende che assistiamo, bisogna stare attenti a due cose fondamentalmente, perché due sono i pericoli per cui vi possa essere una reintegra. Uno, il procedimento disciplinare deve essere fatto come si deve, per cui ha delle fasi che non sto a dire perché annoierei chi ascolta. Due, la tempestività. Perché c'è un principio di immediatezza del licenziamento. Non c'è stata. Allora, con queste due cose, senza entrare nel merito della vicenda, se c'è una violazione di questi due aspetti, il giudice può, e lo dice la Cassazione, l'ha detto a marzo 2017, reintegrare. E in questo caso è stata violata la tempestività, cioè dovevano cacciarlo subito. Questo ci quindi non dicendo. C'è nessun giudice che è impazzito, queste facili speculazioni su questa storia. Insomma, si è creato un caso dove il caso non è. Corte di Cassazione dal 2007 afferma questi principi e dice: se non procedi tempestivamente hai perso il potere. E questo di, ce l'ha chiarito, ma questo è il motivo per cui è stato reintegrato. Però lei... sostanzialmente quindi noi parliamo di una specie di effetto collaterale del garantismo, perché di questo si tratta. Poi così, avvocato, scusi, quando si becca un dipendente che ruba si dice non si può cacciarlo subito, aspettiamo il processo. Hanno aspettato il processo, dice adesso è troppo tardi. Assolutamente no, perdonatemi, se andate a vedere, non mi continuo a annoiare, ma c'è una sentenza specifica della Cassazione che dice tu azienda non ce l'hai questo potere di aspettare l'esito del procedimento penale. Quindi una volta che hai rilevato i fatti e sono chiari secondo te come li ha commessi, devi procedere, è un diritto barra dovere, quindi non hai un'altra scelta. Puoi fare la scelta garantista, ma poi non è che la puoi abbandonare il garantismo a metà dell'opera. Se hai fatto una scelta devi aspettare i 3 gradi. Mi scusi, avvocato, ma qual è la ratio dietro tono a questo? Cioè, qual è la ragione per cui se io non ti licenzio in tronco immediatamente poi non posso più? Cioè, è un problema nel portare le prove successivamente? Cioè, qual è la dinamica razionale? Sono diversi, perché voi sapete benissimo che per licenziare una persona devono venire meno i presupposti per la continuazione immediata del rapporto di lavoro. Lo dice il 2119 del codice civile. Quindi lei dice se uno è... Se io me lo tengo 5 anni... un lavoratore, vuol dire che insomma non è che è abbastanza tollerabile la sua presenza. No, questo è interessante, avvocato, perché vogliamo sentire anche Silvia Kranz. Cioè lui dice: se una persona è accusata di furto, che fai? Te la tieni 4 anni in un'azienda? Allora vuol dire che ti sta bene così. Se sei un'azienda, come dire, che accetti che ci sia una persona che è accusata di furto, quindi... E soprattutto accetti il rischio che poi tu sai, azienda, devi sapere, che poi non sappiamo come andrà a finire alla fine questa vicenda, perché ci sono ancora dei gradi anche. Sì. Certo, altri due gradi di giudizio. No, ce ne sono con la Fornero, ce ne sono addirittura quattro. Ma voglio dire, alla fine può essere pure che verrà ribaltato tutto. Sì. No, però è chiaro però, che i titoli... No, grandi, perché già anche la Corte... Vabbè, ma questa è la questione penale, la vedremo. No, civile, lavoro. Dico però, tu azienda, facendo questo tipo di scelta, accetti anche il rischio. Questo sì, però avvocato, si fermi un attimo, perché dobbiamo andare da Silvia Kranz. No, vi devo perché... solo fare un'altra presentazione. No, ma torniamo da lei, non è che la buttiamo a mare, avvocato, stia con noi. Siamo sempre qui. Vogliamo andare a Silvia Kranz, anche perché lei invece tra 5 minuti ci deve lasciare. Capisce però, avvocato, e giro a Silvia Kranz, che ha ascoltato con pazienza, oggi i titoli dei giornali sono: se il postino viene assunto due volte, il ladro ha sempre ragione. Per carità, noi giornalisti, Silvia Kranz, semplifichiamo anche, ma dal punto di vista del diritto non fa una grinza, secondo lei? Non fa una allora, pena? L'avvocato ha puntualizzato esattamente l'elemento fondamentale che ha determinato la vicenda. Poste è una società e quindi non è sottoposta ai principi che regolano il procedimento disciplinare in ambito pubblicistico o pubblico. Che lei invece conosce, che lei invece conosce certo. Molto bene. Volevo puntualizzare questo. In ambito privatistico, quindi SPA Poste, sì. Il potere disciplinare è un potere discrezionale, non è un potere vincolato come invece la maggior parte dei giudici e dei commentatori del diritto ritengono essere in ambito pubblico. Quindi Poste poteva o poteva non avviare il procedimento disciplinare, era una sua, diciamo, scelta discrezionale. Mm-hmm. In secondo luogo, in ambito privatistico non esiste la pregiudiziale penale. Sì. Non esiste infatti l'obbligo e nemmeno è previsto sospendere il procedimento disciplinare in attesa della pronuncia definitiva, come invece abbiamo in ambito pubblico. Quindi okay. Sostanzialmente loro avrebbero potuto licenziare? Questo è il senso. Allora, sì, avrebbero potuto licenziare immediatamente, tra l'altro da quel poco che ho letto, ma l'avvocato sarà sicuramente più informato di me sull'argomento, avevano abbondantemente, diciamo, raccolto elementi che potevano condurre al licenziamento. Guardi, ieri l'avvocato, Silvia Kranz, l'avvocato ieri mi ha detto questa frase, penso che si possa ripetere: l'avessero licenziato subito non saremmo qui a parlare di questo caso. Sono d'accordo. C'è però un elemento che potrebbe ribaltare la vicenda nei prossimi gradi del giudizio e che non so se sia stata fatta valere dalla difesa di Poste Italiane. Poste ha un contratto collettivo nazionale di lavoro che prevede una norma molto particolare, che è la possibilità per l'azienda di sospendere il lavoratore per il quale si ritiene suscettibile un licenziamento, di attendere l'esito della sentenza di primo grado, sì. Quindi di sospendere il lavoratore esattamente come ha fatto in questo caso. Appunto, così ha fatto, ha sospeso con la facoltà di tenerlo sospeso fino al primo grado di giudizio. E dopodiché ha licenziato, quindi esiste una norma del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevede forse, questo. Forse potrebbe ribaltare. Vabbè, questo vedremo. Capisci, quindi Veronica, c'è anche un elemento di discrezionalità del giudice in tutto questo, perché volendo questo sempre. Sulla questione della tempestività del provvedimento adottato è il giudice che sicuramente se la può giocare, e se l'è giocata nel tempo, soprattutto in ambito privatistico, dove non esistono i termini stringenti del diritto pubblico, se l'è giocata moltissimo. Abbiamo avuto sentenze pro e contro la tempestività in più casi, quindi io non escluderei affatto che cambi il giudizio di questa vicenda. Ma anche lo stesso avvocato ci ha detto, però capisci Veronica, noi non siamo esperti di giurisprudenza, certo, no. Anche i nostri ascoltatori, ma sentire e leggere che di fatto questo postino, questo operatore, certo, è stato reintegrato in quanto è stato licenziato tardi perché presunto ladro, ma tardi. Sai cos'è, Alessandro? L'assoluta assenza di logica, perché apparentemente, se uno non la vede da un punto di vista giuridico, e chiaramente poi c'è una giurisprudenza al riguardo, vista dall'esterno sembra tutto paradossale, perché passiamo dal lamentarci di come si comportano i dipendenti pubblici, di quelli che non vengono assunti, di tutte le parole dette a iosa, furbetti, fannulloni, poi succede una cosa come questa e per un motivo strano, perché apparentemente è bislacco dal punto di vista logico, uno viene reintegrato, addirittura gli sono stati saldati dati tutti gli arretrati, stipendi, tutti gli arretrati che non aveva avuto, quindi la situazione diventa paradossale, no, chiaro, altro infatti, che funambolica, cioè, siamo oltre. Avvocato Di Risio, torniamo da lei, poi andiamo a concludere, però il punto effettivamente che lei deve chiarire agli ascoltatori è questo, c'è un ascoltatore che sente che sono stati garantisti alle Poste, sono stati garantisti, hanno detto vabbè non cacciamolo subito, aspettiamo il giudizio, e spesso si dice non si può condannare sulla base solo di intercettazioni, e allora hanno fatto i garantisti, hanno atteso il primo grado, è vero, non sono allora, tre però, adesso sono colpevoli di aver atteso il primo grado, però mi ascolti, sì. Compriamo il campo da, visto che mi ha dato l'opportunità e visto che in altre insomma hanno fatto un processo parallelo in altre, va bene, qua no, non lo facciamo, vede, invece gli facciamo spiegare. Partiamo dalla premessa. Io quando ho conosciuto questo signore, la prima domanda che gli ho fatto: li hai presi i soldi? E lui mi ha detto no, non li ho presi. Vabbè. Quindi nel processo... Però la condanna in primo grado c'è stata. No, vabbè, è una condanna in primo grado. Con i limiti della condanna in primo grado. In Italia dovremmo essere innocenti fino al terzo grado di giudizio. Sì, infatti, è così. Nel processo del lavoro ci siamo difesi anche nel merito. Cioè noi abbiamo dato delle prove a discarico, abbiamo detto non siamo stati, e abbiamo detto questo e quest'altro, e abbiamo offerto anche una prova per dimostrare che il fatto è contestato in sussistenza. Sì, ma non è questo il motivo per cui l'ha reintegrato, l'hanno reintegrato per... C'è un cancello di interesse, diciamo così, che ci sono delle eccezioni pregiudiziali, che prima di entrare nel merito, che sono uno che l'ho fatto sulla violazione del procedimento disciplinare, perché c'era anche quella, e due, questa sulla... tempestività. Sì, il giudice, se rileva questo fatto, non può andare avanti. No, ma è chiaro. Il giudice ha applicato la giurisprudenza. La premessa è errata, cioè il lavoratore è ladro. Chi l'ha detto? Una sentenza di primo grado, ma non è ladro. No, però presunto ladro. Se è presunto ladro, allora le Poste, con le prove che aveva... Ma lei ci sta dicendo che se avessero atteso tre gradi, altro che non tempestività, ci sarebbe stato, avremmo atteso fino al 2022 i tre gradi, capisce? Attenzione, non è i tre gradi, avremmo atteso fino al 2022, però c'era una norma che prevedeva che con la sentenza passata in giudicato poteva Poste licenziare. Vabbè, Veronica, mi sta venendo un'emicrania. In realtà è tutto chiaro dal punto di vista del diritto, è tutto chiaro. Ma perché uno cerca di capire e di raccapezzarsi, però ogni tanto, mi scusi avvocato, sì. da noi comuni mortali che la guardiamo dall'esterno, sembrano un po' quelle situazioni in cui la giustizia mortale, resta imbrigliata nelle dinamiche della legge, perché un pochino appare deve così. Deve accettare il pronunciamento. Non è così, perché poi ogni pronuncia, attenzione, cioè lo stato di diritto è garantito dal fatto che ci siano delle regole e devono essere applicate a tutti, anche se uno è brutto, sporco e cattivo. Chiesto sì. Silvia Kranz ce lo vuole spiegare invece con la sua chiarezza cosa succede nel pubblico, cioè quando vediamo il dipendente che timbra in mutande, il famoso di Sanremo, lì cosa invece avviene nel pubblico e cosa si può fare dal punto di vista del licenziamento? Dal punto di vista pubblico, in senso stretto, abbiamo termini molto più dettagliatamente descritti e quindi abbastanza semplice, diciamo, semplice tra virgolette, per un ufficio disciplinare avere un orizzonte da rispettare abbastanza chiaro e netto. È chiaro che se superiamo quei termini anche noi subiremo una pronuncia di annullamento dal giudice, come è avvenuto in questo caso. Abbiamo la possibilità di licenziare immediatamente oggi, tra l'altro con il procedimento per direttissima, come lo definisco io, in caso di flagranza, abbiamo tempi rapidissimi. Oppure abbiamo la possibilità, in caso di dubbio, di sospendere in attesa di sentenza, ma questo lo dice già la legge, mentre per Poste Italiane legge niente dice a riguardo. Quindi, ecco, ma scusi Kranz, una cosa soltanto, anche questa anomalia su Poste Italiane, perché è vero che non parliamo di un'azienda pubblica, però parliamo di un'azienda enorme, mastodontica, che ha col paese un certo tipo di legame. Il fatto che anche lì sia presente una giurisprudenza così sui generis è strano, cioè. No, purtroppo se si è privati, si è sottoposti al regime privatistico. Il regime privatistico è chiaramente definito dal codice civile e vale per tutti, anche se la società è in mano completamente a un soggetto pubblico, è comunque una società privata. Ma questo fa un servizio pubblico. È in mano appunto a un ente pubblico, però è privatistico. E questo è il paradosso, anche l'ennesimo. C'è Alessandro che ci chiama da Como per concludere, perché poi parleremo invece di dipendenti pubblici in senso stretto, dopo la pubblicità di scuola. Ma Alessandro ci chiama da Como. Buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Benissimo. Ero d'accordo con voi quando, non mi ricordo chi di voi due conduttori ha detto che c'è un eccesso di garantismo, nel senso che accusiamo le Poste per il ritardo nel licenziamento, per il discorso che siamo detti, ma vorrei dire che nel frattempo il dipendente ha avuto solo benefici da un ritardato licenziamento, perché ha percepito lo stipendio e aveva anche più tempo per mandare curriculum e riciclarsi sul mondo del lavoro. Sì. E la domanda successiva è quella: cosa poi sarebbe successo alle Poste se avesse licenziato tempestivamente il dipendente, poi dopo reintegrato da un giudice? Avrebbe dovuto reintegrarlo, probabilmente pagargli parte degli stipendi passati, in più per un lavoro che non aveva svolto perché non c'era più, magari doveva anche pagargli dei contributi per danno morale. Dice sono cornute. Quindi, mazziate in ogni caso. Ecco. Cornute mazziate. E questa è l'assurdità del nostro sistema, che mi permettete, il giudice applica le leggi, ma noi abbiamo un sistema politico parlamentare che secondo me è incompetente e non sa fare le leggi, è inconcludente, incompetente. Io vi dico solo una cosa e poi vi lascio. La legge contro i reati ambientali è stata varata e finalmente approvata l'anno scorso 2016, ma era 20 anni, mi risulta, che erano i Cassetti. Alessandro, è un problema. Secondo voi un tema del genere così trasversale non avrebbe dovuto mettere d'accordo la sinistra e la destra più estrema, staliniani e fascisti o quant'altro? Questo, Alessandro, però è un altro discorso, ma che fa capire le incrostazioni di questo paese che ci sono. Noi, cara Veronica, dobbiamo salutare i nostri ospiti e andare in pubblicità. La morale di questa storia, non so, non è che intanto è raccontarla, l'abbiamo raccontata. No, guarda, dal punto di vista del titolo della nostra trasmissione non c'è niente di più funambolico che la gestione della giurisprudenza di Stato e dei dipendenti pubblici. Anomalie su anomalie. E anche i dipendenti privati. Ringraziamo comunque l'avvocato Carmine Di Risio, come vede, insomma, invece di affidarci anche a commenti un po' puntuti che ci sono sui giornali, abbiamo fatto spiegare la storia, poi ognuno si fa la sua idea. Ringraziamo anche Silvia Kranz. Dopo la pubblicità, cara Veronica, invece avremo dei dipendenti pubblici in senso stretto, pare che siano almeno 30.000. Che lavorano nelle nostre scuole, hanno lavorato nelle nostre scuole, hanno fatto le supplenze e non sono mai stati pagati. Perché? A chi tutto e chi niente. A chi tutto e chi niente. vedi? Insomma, dopo la pubblicità. I funamboli. I miei genitori mi hanno insegnato che rubare è rubare, e perlomeno se rubi sul lavoro, almeno il licenziamento, visto che nel privato è la prima cosa che fanno. Buongiorno funamboli, ho una domanda per l'avvocato, che fa il suo lavoro, lo fa benissimo anche se ci fa perdere le staffe, ma se le Poste sono un SPA, perché ci si entra per concorso pubblico? Buongiorno a te, funambolo. Vedi, cara Veronica, quello che dice, ma nel privato è così. Invece abbiamo scoperto che si applica, appunto, pur essendo un servizio pubblico gestito però da SPA, il contratto privatistico. E quindi, paradossalmente, Manera ci diceva: ho scoperto che sono meno tutelati i dipendenti pubblici e sono più tutelati quelli gestiti dal contratto privatistico. È così. Paradossalmente, è così. È così. Però invece, cara Veronica, alle 9.37 minuti non sono certo tutelati i dipendenti pubblici che vogliamo raccontare. Non tutti ora. I dipendenti pubblici, possiamo dire, alcuni sì, altri no. Infatti vogliamo salutare Marisa Franco, che ci racconterà la storia sua e di altre persone come lei. Marisa Franco, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tra l'altro lei è amministratrice di un gruppo Facebook che ha questa dicitura: supplenti senza stipendio. Accidenti. È un nome, è proprio un nome che indica una condizione. Già brutta, brutta, brutta. Brutta, forte. Quanti siete intanto nella situazione che lei ci sta raccontando adesso? Allora, il mio gruppo raccoglie 2.400 membri circa, sì. Ma in Italia siamo in tanti a vivere, non saprei i numeri, però siamo in tanti a vivere questa condizione di precariato, perché noi siamo i supplenti a tempo determinato. Supplenti in realtà noi andiamo a coprire le supplenze per malattia, ma anche i congedi parentali, le aspettative e le maternità. Ecco. Quindi quanto dura una supplenza, Marisa? Cioè, di quanti giorni vi capitano di solito? Giorni, si parla di mesi, perché di solito può esserci una malattia che ha un decorso breve, ma può esserci una maternità che dura 9 mesi, per cui noi andiamo a coprire. Infatti, la classe. Lei è professoressa, a Bari, in un liceo a Bari. Sì. Liceo sì. Di che tipo? Scientifico, classico? Linguistico, perfetto. Sì. E che succede? Cioè, voi avete lavorato, voi dico perché lei rappresenta appunto la storia di tante altre persone, avete lavorato soprattutto a maggio-giugno, ma non siete mai state pagate. Sì, io ho lavorato da gennaio fino a giugno e ho avuto dei ritardi negli altri mesi, ma in modo particolare nel mese di maggio e di giugno, qui arretrati ancora non ho visto. Perché... Ma com'è possibile? Cioè, qual è la motivazione ufficiale per cui voi, che già siete supplenti e quindi poi vi ritroverete nuovamente con un lavoro da cercare in attesa di sostituire qualcun altro, non venite pagati? Cioè, perché? Allora, la situazione è complessa, perché fino a qualche anno fa gli stipendi di noi supplenti a tempo determinato venivano pagati dalla scuola e fino a quel momento gli stipendi sono stati regolari. Dal momento in cui la macchina burocratica burocratica è diventata sempre più insidiosa, e allora insomma accade questo, che i nostri servizi vengono caricati e quindi la scuola, dopo aver caricato i servizi, autorizza nelle rappresentanze del direttore amministrativo e dopo il dirigente scolastico. Dopodiché il processo, la macchina, il passaggio, l'ulteriore passaggio è quello ministeriale, del NOIPA, insomma, della ma che cos'è questo NOIPA? Cioè, sono nomi, sigle surreali. Che cos'è questo NOIPA che deve pagarvi? Allora, noi controlliamo tutto su questo portale, sarebbe il portale della pubblica amministrazione, in cui noi vediamo la nostra storia dal punto di vista, quindi, della nostra carriera e quanto. Però in realtà è la ragioneria territoriale dello Stato che quindi si occupa della qui professoressa Franco, però c'è da dire che c'è un prima avere l'autorizzazione del MIUR. Esatto, c'è il MIUR e il Ministero. Cioè c'è un rimpallo, credo di aver capito, di responsabilità, nel senso che a livello territoriale, diciamo così, dicono: noi abbiamo dato tutto al MIUR, cioè al Ministero. Il Ministero dicono: noi non abbiamo ricevuto niente. Ma il Ministero ha anche detto di aver dato l'ok ai fondi, giusto? Che loro hanno detto che va bene, e quindi è così, è un cane che si morde la coda. In teoria è così, si morde la coda, perché noi di fatto siamo in tanti a non aver percepito gli stipendi. Capisce che uno tira il filo di qua, l'altro di là, poi la funambola a volte rischia di cadere. La funambola rischia di cadere. Ha voglia a tenere l'equilibrio, a un certo punto ti butti giù dalla fune e dici: vabbè ragazzi. No, però ci vuole raccontare, al di là di questa disavventura spiacevole, perché aver lavorato per lo Stato, per carità, lo Stato non paga, anche, che ne so, le imprese le paga dopo mesi, alcune dopo anni, alcune sono fallite per crediti nei confronti dello Stato. Però cosa significa lavorare in questa situazione già di precariato e anche con l'incertezza di ricevere lo stipendio? Allora, io il mio precariato è molto lungo perché ho la mia età, cioè ho 50 anni, per cui il mio precariato è lungo. Io ho vissuto una vita da emigrata proprio per la passione di questo lavoro, quindi ho dovuto anche affrontare condizioni difficili, quindi di pagamento dell'affitto e con uno stipendio che era uno stipendio precario. Quindi noi siamo animati da questa grande passione, perché altrimenti non sarebbe possibile, ci vuole una grande forza per fare questo lavoro, e questa forza in questa situazione difficile si trae dagli occhi dei ragazzi. Lei porta anche i ragazzi alla maturità, se non sbaglio, no? Sì, ho due classi, quindi li porta anche a una responsabilità, a portarli. E come? Oltre a un bagaglio di esperienza, ma anche di conoscenza delle materie, dovute anche a un lungo percorso, perché noi siamo abilitati, quindi abbiamo superato delle prove, per cui siamo abilitati all'insegnamento. Tanti, è vero, coprono con le MAD delle cattedre che purtroppo al nord non si riesce a coprire con le graduatorie di istituto, e quindi si tratta di neolaureati, ma noi che siamo nelle graduatorie di istituto siamo delle persone abilitate. Però vedi Veronica, guarda che ti sottopongo e sottopongo alla professoressa questo messaggio. Ci scrive Irza, che è un nostro grande ascoltatore da Santeramo, dice: non venivano pagati perché a giugno si eroga la disoccupazione agricola e quindi servono soldi per pagare noi. Io non lo so se la coperta è talmente corta, e lo sappiamo. No, ma voglio dire, può essere anche che sia così. Probabilmente sarà vero. Io mi chiedo però ai supplenti che cosa interessi di questo nel momento in cui hanno lavorato quattro mesi devono portare lo stipendio a casa per campare. Perché lo Stato così... si sa che ha pochi soldi in cassa, ne vuole sempre di più. Adesso non voglio fare Oscar Giannino. E poi o paga uno o paga l'altro. Ecco, questo mi sembra. No. In realtà la situazione non è così semplice. Non si tratta solo degli stipendi di maggio e di giugno. Noi dobbiamo anche parlare dei primi stipendi della prima parte dell'anno, perché di solito ai supplenti a tempo determinato i primi stipendi, quindi di settembre, ottobre, novembre, dicembre, non vengono erogati, vengono erogati a gennaio, il che significa che verranno considerati come arretrati e quindi superpassati. Quindi lo Stato sulle nostre spalle risparmia un mare di soldi, e noi siamo la cura al sistema della scuola pubblica italiana. Certo. La cura. Noi Marisa seguiremo questa storia, Veronica, come tutte, Marisa Fragolini, ci faccia sapere. Marisa, più che altro ci faccia sapere se sono arrivati i soldi, se no andiamo sul portale del Noipa, parola del giorno, e capiamo cosa fare. Allora, intanto ci scrivono, la ringraziamo Marisa Franco, ci scrive un ascoltatore, dice: in Friuli Venezia Giulia hanno licenziato ieri 6 assenteisti, ho sentito che l'avvocato dichiara dovevano aspettare il primo grado. E invece abbiamo scoperto che nel pubblico si può, ci ha detto Silvia Kranze, applicando il sistema privatistico invece bisogna essere più tempestivi. Quindi tutti nel privato, tutti nel pubblico. Dai, andiamo al traffico invece, tutti nel traffico, e poi è arrivato il funambolo. I funamboli. Eccoci qui, cara Veronica, è arrivato sempre più pelato. Sempre più pelato. Sempre più bello, devi dire. Sempre più bello. Questo lo dice Veronica. Ma è vero o no che ti sono ricresciuti 3 capelli stanotte, mi ha detto prima? Allora, per contrastare le vostre facili ironie, vi dirò che a me i capelli nella parte posteriore del cranio crescono regolarmente e tutte le settimane vado a farmeli tagliare dal barbiere. Nella parte posteriore del cranio. Il riportone di nuca. La roba orrenda. Potresti donarli i tuoi capelli sulla parte posteriore del cranio? Potrei veramente, anzi potrei farmi anche un autoriporto, ma siccome sono bello così pelato evito di farmi l'autotrapianto, scusa, non l'autoriporto. Bruce Manera Willis. Grande, eccolo qua. Ad ogni modo, io ogni mattina mi alzo per venire qui, vado nella mia edicola. Sì, ma non dirlo con questo peso che ti alzi presto. No, perché ieri sera ho lavorato a Parma, ho finito tardi, sono tornato a casa tardi, però nonostante la fatica fisica, stamattina sono venuto qui come sempre. poi compro. Grazie Leo. Sei veramente buono, grazie. L'ho fatto per voi. Allora, in metropolitana, dove cominciano a circolare i primi virus parainfluenzali, no? Si sentono i primi colpi di tosse, certo. Nasi chiusi. Leggo il giornale. Oggi ho comprato il giornale e ho trovato questo articolo che mi incuriosisce: guerra linguistica alla Camera, le donne contro la Boldrini. Cosa è successo? Praticamente da oggi scattano i tesserini nuovi per entrare alla Camera, che Laura Boldrini ha fatto declinare al femminile, quindi giusto. Bibliotecario, se sei una donna sei una bibliotecaria, addetto stampa diventa addetta stampa, ma è scattata una rivolta da parte delle donne che fanno il segretario, perché che è un ruolo dirigenziale, e adesso si chiameranno segretaria, che è sminuente. Ma non è sminuente, ma viva le segretarie. Secondo loro è sminuente rispetto a segretario parlamentare, e segretaria sarebbe sminuente, quindi pare che ci sia questa rivolta da parte. Io infatti vorrei essere chiamato da anni giornalista, sto portando avanti questa battaglia, ma non ce la faccio, mi sento un po', però vabbè. Ma cerchi anche di farti chiamare sciocchino, accetto, e non nemmeno quella di battaglia. Tutto. Però io sono felice oggi, perché sono felice? Perché ho fatto un sogno bello, a volte si sogna di notte. Che sogno ho fatto? C'erano le elezioni, andavo a votare e sapevo per chi votare, convinto che quel partito che stavo per votare avrebbe migliorato la mia vita e avrebbe migliorato l'Italia. Era un sogno. Nel mio sogno c'erano solo due partiti, uno un po' più conservatore, l'altro un po' più progressista, e non c'era bisogno di premi di maggioranza, che poi io il premio di maggioranza non l'ho mai capito. Di solito si dà il premio di consolazione a chi perde, non si aggiunge un altro premio a chi ha già vinto. È come se uno vince il Superenalotto, in più dici dai, ti do altri 100.000 euro perché hai vinto. Eh no, casomai 100.000 euro li dà a qualcuno che ha perso. Invece in politica c'è il premio di maggioranza. Un partito ha già la maggioranza e in più gli regala ancora qualche parlamentare. Così gli altri partiti poi si deprimono, diventano rancorosi, non fanno una opposizione costruttiva, come si auspica sempre. L'opposizione costruttiva, che sembra un po' anche una malattia. Cos'hai? Ho un'opposizione costruttiva. Ma nel mio sogno, dopo le elezioni, era chiaro chi aveva vinto e chi aveva perso. Chi aveva vinto governava, chi aveva perso si opponeva costruttivamente. Nella realtà la situazione italiana è un po' diversa. Dopo le elezioni più o meno tutti potrebbero aver vinto a governare l'Italia, ma cominciano i guai per il Presidente della Repubblica, che deve decidere a chi affidare il cosiddetto mandato esplorativo, che viene affidato una persona che deve capire con quali partiti si può fare il governo, come quando sei un ragazzino e mandi un amico a cercare di capire se quella che ti piace è disposta a stare con te, naturalmente non a costo zero, dice prova a vedere se quella ci sta, che me la voglio portare alla Camera, così così si crea una specie di harem dove il Presidente del Consiglio deve di volta in volta gratificare una delle sue amanti con una concessione, un sottosegretario, un decretino, un forestale in più. In Italia, in certe regioni, ci sono così tante guardie forestali che l'unico partito che vincerebbe le elezioni senza problemi sarebbe il partito dei forestali. Ultimamente ho saputo che un brasiliano è venuto in Italia, in Calabria, e ha detto ci sono più forestali qui che in Amazzonia. Qualche volta però il Presidente del Consiglio fa la voce grossa e dice basta, adesso metto la fiducia. La fiducia è una cosa strana, obblighi qualcuno a fare una cosa dalla quale non è convinto, e la cosa è ancora più strana quando quelli che non sono convinti sono all'interno dello stesso partito che mette la fiducia, sono loro stessi. È come se una persona dicesse mi obbligo a fare una cosa dalla quale sono convinto perché in fondo non ne sono convinto. In Italia si chiama politica, nella vita di tutti i giorni si chiamerebbe comportamento da tenere sotto osservazione. E così si va avanti tra leggi che passano alla Camera, si bloccano al Senato, leggi che passano al Senato, si bloccano alla Camera, e molte altre leggi disperse in commissioni, e non c'è mai nessuno con un po' di sensibilità che proponga un minuto di silenzio per tutte quelle leggi disperse che non approderanno mai alla Gazzetta Ufficiale. Alla fine si tornerà a votare prima o poi, e forse anch'io tornerò al seggio, ma solo per rivedere la mia vecchia scuola, perché a votare per il momento penso di no. Oh. Allora intanto voglio segnalare, smetta, intervengano i commessi. voglio segnalare, bello grazie, mia soddisfazione personale umana. Peter Rescafè, Lorenzo Espa, Lisa Pancaldi lì in regia, però era bellina la cosa che me la voglio portare alla Camera, sì, no, ma non devi spiegarla, andava bene così. A me è piaciuta, volevo sottolinearla. Lui ha il dubbio che tu non l'abbia capita dopo che gli hai detto che ti vuoi chiamare giornalista. Allora ci arriva un ascoltatore che dice date questa occhiata al messaggero.it, io l'ho già fatto, c'è un pediatra di Giulianova, si chiama il dottor Roberto Ciccocelli, che ha detto se esiste sindaca e ministra ha messo questa targa pediatro grandissima, guardalo qua, vedi? Ambulatorio, sì, sì. Pediatro, lo vedi, hai già fatto proseliti. Tra l'altro ci scrive Michele da Firenze a dire Leo è bello così. rasato, rasato. Guarda, ringrazio il mio fan numero uno. Rasato e rasato dappertutto. Un pretendente così zelante, per favore, Alessandro. Un pretendente così zelante è raro trovarlo. Leo, pensaci, Guarda che ci chiamano gli ascoltatori. Giannetto ci chiama da Carpi, giusto? Giannetto, che bel nome. Giannetto, sì, buongiorno. Esatto. Eccoci. Eccoci, che ci vuole dire? È il nominino che chiamava mio padre. Che bello. Bello. Sì. E che, perché ci ha chiamato? Io parlavo perché i dipendenti pubblici, diciamo che sono anche quelli degli uffici delle entrate. Sì. In sostanza io ho un'azienda, diciamo, nel stesso abbigliamento dal 1976. Sì. Ho 70 anni e diciamo che per diversi anni sono sempre stato esportatore abituale. Poi c'è stata la crisi del 2007, uh-huh. Chiaramente la forza era quella che era, ho preso dentro i miei figli, che sono tutti e due laureati, uno in giurisprudenza e l'altro in scienze politiche, e ci siamo messi a lavorare in sostanza, abbiamo prodotto e cosa c'è? Continuiamo a esportare, perché io lavoro per un'azienda la quale mi dice tu spedisci la roba con il tuo nominativo in Germania, in Francia e compagnia bella, io ricevo i pagamenti dai francesi, dai tedeschi, perciò per me c'è la bolla di trasporto, la bolla di ritiro, il bonifico bancario fatto a me medesimo, io ho esportato. Per fatto sta che gli altri anni, per avere indietro i soldi del rimborso, in 3-4 mesi sistemai la partita. Adesso? Quest'anno, adesso sono... Sta ancora aspettando. Sto ancora aspettando da gennaio a settembre. Giannetto, quindi no, ci racconta una vicenda simile a quella della, ovviamente per un altro settore, agenzia delle entrate, simile alla docente che ha lavorato e aspetta i soldi. Cara Veronica, è così, è lo Stato. Ci vorrebbe. Dov'è Oscar Giannino? Dov'è adesso Oscar Giannino? Dov'è andato? Andiamo a prendere, così fa un urlo nel microfono. Lo Stato ladro! È così. Andiamo. Dobbiamo avanti. Improvvisarlo in playback, l'urlo di Giannino. Esatto. Ce lo possiamo tenere. State tranquilli, portate i commessi per Leonardo Manera. La seconda ora di Funamboli arriva subito dopo il giornale radio. Non abbandonateci, perché abbiamo oggi, sai che oggi, Veronica, ti facciamo fidanzare. C'è un funambolo meraviglioso oggi. Sì. Ma cosa mi dite? Oggi ti facciamo fidanzare. Ma avete trovato marito? Ma che cari che tra siete. Tra poco. Hai problemi di stitichezza? Hai già provato tutti i rimedi, ma nessuno ti fa accomodare sulla tazza? Allora prova ad assaggiare i biscotti di Nonno Piero. I biscottini in offerta a 30x2 che ti daranno il piacere desiderato da tempo e che si abbinano a meraviglia non solo alla tazza del latte. Biscotti di Nonno Piero, tutto il gusto della libertà intestinale. I funamboli. Yeah, listen, I'm on seven with Jamaica, doing mountain, shining down the river. Buon lavoro e buona giornata. Grazie, grazie mille, molto gentile. Ma sei un po' d'allegria, il buongiorno si vede dal mattino. E infatti io sto caricando il letame, poi trasporto il letame, poi spargo il letame. Praticamente una giornata di merda. Signori, non solo questo è il mitico ragazzo di campagna di Pozzetto. Notizia di oggi sul giorno, verrà fatto un sequel del ragazzo di campagna. Beh, la scena memorabile di quel film era quando arrivava a Milano, andava in questo monolocale, in questi 5 metri quadri. Geniale. Dove c'è, tra l'altro, io ho abitato in un monolocale così, dove c'era il letto che scendeva dalla libreria. Con gli spaghetti in scatola, vi ricordate? Sì, sì. Eccezionale. E proprio oggi racconta il giorno, verrà fatto il sequel. Ma perché raccontiamo Renato Pozzetto questo? È un genio, questo lo devo dire, mi esce proprio... È come no, genio assoluto. Ma perché raccontiamo questo? Cara Veronica, tu sei pronta a sentire... Ma hai detto... Scusami, mi hai lasciata dicendomi che mi hai trovato marito? Cos'è sta storia? Te l'abbiamo trovato. Ti facciamo sentire in questo spazio funambolico un vero uomo. Senti qui. Il funambolo del giorno. Maurizio Paschetta, 32 anni, contadino. 6 volte campione del mondo di agricoltura. In 2 minuti munge 4,5 litri di latte a mano. Signori! Campione del mondo di agricoltura! E non latte solo a questo! Mano. Certo, munge la mucca e non solo questo, detiene altri record del mondo, ma lo salutiamo, Maurizio Paschetta! Detta così ho paura! No, buongiorno Maurizio! Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. 32 anni, Benetta, allevatore, siamo a Saluzzo, in provincia di Cuneo, detiene vari record mondiali. Ragazzi, oggi è un funambolo straordinario. Per esempio, dici qualche altro record del mondo agricolo. Il secondo record mondiale dopo quello della mungitura e quello della pigiatura, che in un'ora ho pigiato 23 quintali e ho fatto sgondare 675 litri. Urca. In tre ore spacca 40 quintali di legna. Mio eroe. aspetta Veronica, c'è poi una cosa singolare di quest'uomo, di Maurizio Paschetta. Ma raccolta tartufi anche, giusto Maurizio? Certo. In 10 minuti 3,6 tartufi su un ring con il tuo cane. Avevi questo ring di 20 metri quadri, giusto? E col tuo cane avete raccolto 3,6 kg di tartufi. Certo. E poi li possiamo mangiare dopo, vero Maurizio? È un uomo sì. di tante parole, come sentite, il nostro sì, agricoltore. Maurizio, raccontaci un po', ma perché te... Cioè, allora, l'agricoltore è un bellissimo lavoro, eccetera, però perché hai fatto un salto di categoria, qualcosa in più, cioè tutti questi record? Tu non fai l'agricoltore, fai il Marines, Maurizio, su. La mia passione dell'agricoltura è andata, diciamo, altrove, nel senso che ho voluto più specializzarla, e innanzitutto per dimostrare che pasta sono fatto, ma soprattutto è quello di tramandare un'antica tradizione agricola che, diciamo, con la meccanizzazione sta scomparendo, e questi lavori diciamo che non li fanno più nessuno. E allora ho deciso di fare questi record, che erano tutti, diciamo, record detentori di persone straniere. Io ho voluto portarli qua in Italia. L'ultimo record, per esempio, l'11-12 settembre 2017, ha fatto la vangatura del terreno a mano. In 24 ore ha vangato 324 metri quadri. Ma ti sei fermato 24 ore? Cioè, no? Ti sei fermato? Sì, mi fermavo solamente per bere e per mangiare, se no ero sempre lì a battere questo record, perché è un record difficilissimo, durissimo, e quindi non dovevo fermarmi. Maurizio, ma tu quando fai questi record, insomma, hai qualche tuo fan che ti incita, dice Maurizio, ma lo fai pure da solo in un'amarezza totale, cioè cominci da solo, finisci da ti amareggi, soffri di una solitudine completa ed assoluta, Maurizio? No, assolutamente no, una marea di persone che mi seguono. Poi dopo l'ultimo record abbiamo fatto una diretta live su Facebook di 24 ore, oltre 200.000 persone in tutto il mondo hanno potuto vedere la mia gara. Ma Maurizio, tu hai delle gruppi? Come le rockstar? Cioè ci sono delle ragazze che ti seguono? Sta cominciando strappando... a farsi interessante la questione. Ovviamente. Ecco, era sì. chiaro. Io volevo anche ringraziarti, perché vangando tutta quella terra sostanzialmente hai recuperato il lavoro di tutte le braccia rubate all'agricoltura, di cui parliamo tutti i giorni, noi comprese. Esatto. Capito? Quindi ti ringraziamo per aver supplito. Tra l'altro, soprannominato Natural Boy, in realtà, Maurizio, dici un po' di te, intanto anche caratteristiche fisiche. Io ho visto due foto, mi sono abbastanza impressionato, cioè dei bicipiti che sembrano ti sei vergognato finalmente? Sì. Le mie gambe, o no, Maurizio? Sono una persona che si allena quotidianamente. Il mio Ma quanto ti alleni? Che fai? Che fai? Ma dici? È un allenamento fisico, perché io lavorando in azienda non posso allenarmi come fanno tutte le persone. Io mi alleno di notte dalle 10 alle 11 di sera, e mi alleno per un'ora o due tutti i giorni, anche i giorni di festa, se no non riuscirei a ottenere tutti questi Ma record. Quando mondiali. Dormi allora, Maurizio? Abbi pazienza. Dormo, sono una persona che dorme anche dai 4, 5, anche 6 ore, così. Sono abituato così e non patisce. Tra l'altro ricordiamolo, ha un'azienda agricola con 200 capi di bestiame, campi da coltivare, se vuoi poi puoi dirci anche che azienda agricola, se hai un sito, eccetera. Cioè, la cosa importante, al di là dei record del mondo, fai un lavoro, e si dice che sempre più giovani riscoprono questo lavoro, no? Uh-huh. Il contatto con la terra, fare l'agricoltura. Ma è davvero così? O è come dire, una leggenda? In realtà è un lavoro molto duro da fare imprenditorialmente. Ma diciamo che se viene detto così, nel senso che i giovani ritornano di nuovo in agricoltura perché magari non riescono a fare altri lavori, o magari non riescono, non vengono presi a fare altre attività e quindi magari è un ritorno forzato. Ma sì, ovviamente, però, è logico. Però, caro Maurizio, leggo qui sul giornale la tua intervista che cerchi una fidanzata, cioè tutti questi record non ti hanno permesso ancora di trovare... Noi, guarda, abbiamo una soluzione a portata di mano, Maurizio. Non so se tu conosci Veronica Gentili, se... Non abbiamo mai avuto il piacere di incontrarci ancora, Maurizio. Io sono indubbiamente, per il tipo di vita che tu hai, la donna ideale per te. Sento che... No, lei è di Roma, ecco, è un po' più cittadina, caro Maurizio. Maurizio se n'è andato, però sembra che non ci sia più. No, sto ascoltando le vostre conversazioni molto interessanti. Lo dici con un filo di ironia, Maurizio, è inutile negarlo. È sconcertato. Ah, ovvio. Maurizio, tu dici che perché una donna possa stare con te in questa vita deve essere una donna disposta ad amare la vita nella campagna, nella natura. Sinceramente non ho mai fatto nessun annuncio di cercasi donna, eccetera. Ah, se l'ha inventata Leonardo Manetta. È che la tentazione del contadino cerca moglie subito, capito? Immediatamente si vede questo natural boy. Sì, quella trasmissione lì mi ha già tartassato di mail e ti volevano come guest star. Partecipazione. Allora, Maurizio, raccontaci. Non ho l'idea di partecipare. Raccontaci, vabbè, io una cosa che non ho capito è perché dal lavoro normale ti è venuto in mente anche di trasformarlo in record mondiali. Cioè, a un certo punto ti è scattato perché avevi queste qualità oppure. Ma è nato tutto nel 2011 vedendo la trasmissione Lo Show dei Record, vedendo questi recordman che battevano dei record impossibili, difficili da battere, magari li miglioravano soltanto di un po', e allora lì ho detto ma perché non fare dei record agricoli? E di lì mi sono informato per vedere se esistevano dei record. Quindi sei nel Guinness dei primati tu con questi record? Sì, sì. Ah, fantastico. Sì, certo, qual è quello che ti manca, quello che o stai preparando? In questo momento ho molte proposte, perché ogni anno ho tante sfide, perché avendo già una certa popolarità le persone mi contattano per sfidarmi. Io in questo momento non ho ancora deciso, ma nel 2018 probabilmente farò più di un record. Tu sei di Saluzzo come Briatore, quindi due persone nella stessa città che fanno due vite completamente diverse. Pensi in futuro di fare qualcosa con Briatore oppure ma Briatore non è di Saluzzo, è a Manta praticamente, che è un paese a 10 chilometri. Siamo il paese dei campanili, gli hai detto che è di Saluzzo, Briatore, invece sta a 10 chilometri, l'hai offeso tantissimo. Vabbè, no, ma che record, che record? Però, no, sono scherzo. Una persona precisa. Si ironizza Maurizio. Ma Maurizio, scusami, i tuoi dipendenti che lavorano nella tua azienda seguono tutti il tuo modello? Cioè tu pretendi da loro che mungano la stessa quantità di litri di latte? Cioè questo è lo standard? Ma ognuno ha le proprie capacità, non posso obbligare una persona a fare gli stessi risultati, diciamo è un dono della natura. Se guardate delle foto capite anche è un dono fisico. Però, naturalmente portato. Nel doverti salutare, ma non ho capito quale record farai, ne farai tanti, dicene uno nel 2018, cioè su cosa, spaccatura di legna, no, cosa fai? Ma per il momento non ho ancora deciso. Non hai deciso. Inutile dire che sulla fine il record non è che si decide così facilmente, innanzitutto bisogna trovare il materiale, e perché ce lo farai sapere, non è semplice. Vabbè, Veronica, noi nel ringraziarlo e salutarlo. Secondo me siamo proprio assolutamente speculari io e Maurizio, una coppia che potrebbe veramente somigliarsi. Giusto appunto volevo chiudere con qualche riga. Dai. Vorrei anche andare con te d'estate in una valle solitaria, continuamente ridendo per le cose più semplici, ad esplorare i segreti dei boschi, delle strade bianche, di certe case abbandonate. Fermarci sul ponte di legno a guardare l'acqua che passa, ascoltare nei pali del telegrafo quella lunga storia senza fine che viene da un capo del mondo e chissà dove andrà mai. E strappare i fiori dai prati e qui, distesi sull'erba nel silenzio del sole, contemplare gli abissi del cielo e le bianche nuvolette che passano e le cime delle montagne. E tu diresti: che bello! Nient'altro diresti, perché noi saremmo felici, avendo il nostro corpo perduto il peso degli anni, le anime divenute fresche, come se fossero nate allora. Ma tu, ora che ci penso, Tu ti guarderesti intorno senza capire. Ho paura e ti fermeresti preoccupata ad esaminare una calza. Mi chiederesti un'altra sigaretta, impaziente di fare ritorno. E non diresti che bello, ma altre povere cose che a me non importano. Perché purtroppo sei fatta così e non saremmo neppure per un istante felici. Niente, Leonardo, è la nostra donna di cultura. Noi leggiamo Kalinic. Dino Buzzati. Dino Buzzati. No, quando va a vivere poi a Saluzzo. Finché esatto. Vengo poi portata a mungere il latte, finalmente a zappare. Il traffico e poi. Ma siamo davvero un paese di superstiziosi? Tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta. I Funamboli. Una domanda per Maurizio, ma quando raggiunge questi suoi record ci sono poi anche i pensionati che assistono alle sue performance e poi lo criticano, cose del tipo ai miei tempi non si faceva così eccetera eccetera? Ai miei tempi era tutta un'altra cosa, c'erano dei record più significativi, caro Alessandro. È un po' così, non credo che siano come i pensionati davanti ai cantieri. Non ci sono più i record di una volta, Alessandro. Allora, signori, sono le 10:21 minuti, questi sono i funamboli. Io ho fatto una domanda forse retorica. Siamo un paese di superstiziosi. Qua c'è Leonardo Manera che fa teatro, figurati loro. Non capirai. Guarda, io faccio teatro con lui ogni tanto, rifaremo. È Platone, non sai mai come comporta. Non so. Le prime volte, devo dirlo, ero terrorizzato. Ho detto, adesso mi vesto così, mi dicono che porto sfiga, dico questo, non devo dire quest'altro. No, io non sono molto superstizioso. L'unica cosa che faccio come superstizione, se faccio qualche gesto prima di uno spettacolo che va bene, poi lo ripeto sempre. Ad esempio, mi allaccio le scarpe in un determinato modo e poi lo spettacolo va bene, tendo a rifarlo. O quelli che si presentano agli esami universitari vestiti così, tutti gli esami vestiti uguali. Scusami, il dubbio è, metti che servisse, no? Io non so se serve, però qualora dovesse servire a me, che mi costa farlo? Niente, abbi pazienza. Infatti, se è così che ti dà una sicurezza psicologica, va bene, ecco, non è niente di male, però quando diventa... Tra l'altro, tu ci scherzi, ma lo sai che la superstizione ha un effetto quasi dopante? Pare che da esami vari che hanno fatto, se sei convinto che una cosa porti bene, alla fine fai sì che ti porti bene, un po' come l'effetto placebo. Quindi, esatto. Allora, noi abbiamo invitato due ospiti, intanto un grande scrittore, un grande amante di Napoli, essendo napoletano, lui e il commissario Ricciardi, Maurizio De Giovanni, buongiorno e grazie di essere qui. Tutto rinfrancato perché il suo Napoli, ma la grandissima. Devo dire che siamo vagamente lieti. Vagamente lieti. È cominciata bene, direi. Esatto. Maurizio De Giovanni, perché a Napoli vogliono fare un grande corno, no? Vogliono fare addirittura il monumento al corno di Napoli, ma dai, ma sta cosa, mamma mia. Sì, diciamo, è un argomento dibattuto, perché pur essendo una parte importante delle nostre tradizioni e del nostro pensiero, francamente un grosso corno sul lungomare è abbastanza brutto, quindi brutto. La bruttezza non è opinabile, però magari porta bene, però porta bene, ma bastasse questo credo che sarebbe stato edificato da tempo il corno, e quindi diciamo il bene che può portare un corno è una cosa precipuamente individuale, cioè porta bene a una persona, porta bene tenerlo in casa e però vede che ci crede. Sì, sembra interessato alla questione. Io credo che il potere della mente umana sia sostanzialmente ancora sconosciuto, quindi il bene e il male forse sono anche nell'ambito della disponibilità della capacità di una mente. Il malocchio può essere soltanto una malevolenza personale, il benessere, l'avete detto prima, a volte è solo il frutto di una convinzione personale. Personale, quindi se qualche oggetto esterno può aiutare il formarsi della convinzione personale, perché no? Vabbè. Perché no? È che qua Veronica vogliono farci un monumento a lungomare, capisci che... No, ma però non mi sembra che le autorità fossero contrarie, tutte le varie, cioè, i politici locali erano tutti abbastanza d'accordo. Ma ci rendiamo conto, cioè fare un monumento, cioè, diciamo, a qualcosa perché porta rischio, bene. Il rischio è un po' il cliché italiano spaghetti e mandolino, no? Cioè facciamo il cornone. Guardi, noi stiamo vivendo in questo momento, in questa città, un incremento turistico impressionante. Cioè, sì, saranno anche delle cause, diciamo, esogene, no? Quindi la mancata possibilità di accedere al Nord Africa come era prima, o alla Grecia stessa, certo, o ai Balcani. Però sta di fatto che Napoli sta avendo un enorme incremento turistico. Qualcosa di provvisorio, come è stato l'albero, per esempio, l'anno scorso, sì, che è stato costruito sul lungomare, ancorché brutto, se può essere di ulteriore incentivo temporaneo, limitato nel tempo e predeterminato, come è stato per l'albero, per l'afflusso dei turisti. Dici, perché no? Il corno è meno brutto, è brutto, molto brutto, molto però brutto. È meno brutto di tantissimi altri oggetti del genere. No. Però aspetta, De Giovanni, aspetta Veronica, perché dobbiamo presentare un altro ospite. Io qui chi devi presentare? Ma guarda, io non sono superstizioso per nulla. Però ho capito, abbiamo, tu però. Vabbè, infatti abbiamo il sindaco del comune italiano di 1320 abitanti, siamo in provincia di Matera, quindi siamo in Basilicata. È considerato il paese, anzi addirittura senza nome, alcuni non lo nominano, io lo nomino Colobraro. Il sindaco è adesso te la vedi così. L'hai scandito anche molto bene. Io voglio capire perché. Allora, amici all'ascolto, chi di voi volesse cambiare stazione è assolutamente autorizzato, anzi è auspicabile che voi lo facciate. Sindaco Andrea Bernardo, dica qualcosa a Veronica Gentili, sindaco del paese che porta IEL. Buongiorno sindaco. Di Colobraro. Colobraro. Io invito semplicemente la signora Veronica a venire, se è così superstiziosa all'ingresso del paese le doniamo una muleta, un abitino che così la tranquillizza su tutto e vede le nostre bellezze. Ma lei sindaco mi può proteggere dal malocchio? Sì, lei ha anche questi poteri qui, vero? Io purtroppo, a differenza di quello che sto ascoltando, che leggo di solito, io non credo praticamente a nulla. Però come quindi... mai questo il suo paese si è creato questa fama un po' sinistra, diciamo? Il paese si è creata questa fama per due motivi, uno molto banale degli anni 50, che sarebbe caduto un lampadario allo quando un notabile del posto avrebbe detto: se non è vero ciò che dico dovrebbe cadere il lampadario, non si capirebbe perché dal presunto iniettatore il tutto sarebbe passato al paese. Poi peraltro non è successa neanche questa cosa, o sì, è successo? Ma no, le dico pare perché non è successo, è chiaro che sono, diciamo, cadesse il lampadario, sembra la pubblicità del buon Dio. E poi l'altro è che sempre, diciamo, negli anni 50 la Basilicata è stato oggetto di studi antropologici da parte di Ernesto De Martino, di altri antropologi successivamente, per ricapire perché appunto questa Lucania magica avesse ancora tutti questi riti dovuti a fattucchiere, maciare, maghi e quant'altro, che erano legati, quindi motivi storici insomma, legati alle mancate conoscenze, come avete ben detto prima, da parte delle persone che si legavano e attaccavano a tutto pur di cercare di capire o di essere tutelati. Ma anche perché vogliamo dire che c'è un aspetto di riduzione dell'ansia in tutto quello che è apotropaico, cioè superstizioso. L'ho sparata. Così. Questo era per cercare di ingraziarmi il presidente dell'Accademia della Crusca nella speranza che ritorni. Alle 10:28 ha detto apotropaico. L'ho buttato lì. Però sindaco, tra l'altro, io so che lei alle volte è stato fermato dai carabinieri, ma è vero che succede ancora? Dice: ma lei da dove viene? Per carità, vada pure. Devo dire che questo è successo, ora succede un po' meno perché noi su questa cosa ci abbiamo abbastanza creato un evento del maestro antropologico con un percorso teatrale itinerante che ironizza un po' su tutte queste figure antropologiche. E con il dono di questo amuleto che fa contento di tutti, di questo abitino che sarebbe un classico posta fortuna, scaccia malocchio, antimalocchio per la precisione. E diamola anche invece a Veronica. Invece veniamo a correre un sacco di persone a divertirsi su questa cos'è tematica. Il festival della sfiga, come si chiama? No, si chiama Sogno di una notte a quel paese. a quel paese. Ah, eh sì, perché a quel paese, perché non si può nominare Colobraro, dice, a quel paese. Dicono lui, così. Lui lo ripete. Sindaco, faccia smettere Milan di ripetere il nome del suo paese, intervenga, faccia un'ordinanza. No, invece noi ne abbiamo piacere, anzi lo collochiamo. Noi siamo in provincia di Matera, capitale della cultura 2019, in Basilicata, così lo diciamo ai cittadini. In questo momento siamo... Guardi, il 30 settembre sono a Matera, magari faccio un salto a Colobraro. Tra l'altro terra meravigliosa, io sono stata a Maratea invece quest'estate, la Basilicata è splendida. Però Maurizio De Giovanni, ma sei superstizioso, Maurizio? Non ho capito poi bene se... Quindi, essendo napoletano, mutuo dall'essere napoletano tutti gli atteggiamenti. direi che la superstizione che presa col sorriso può essere anche divertente. Non bisogna, come in tutte le cose, esagerare. Io ricordo che la superstizione ha ucciso persone, ha rovinato carriere. Bravo, anche certo. Nel mondo dello spettacolo ha indotto purtroppo grandissimi artisti ridotti ai margini del mondo in cui erano. Per esempio, Maurizio, molti ci scrivono se si bacia il sangue di San Gennaro, stiamo parlando di Napoli. Non mescoliamo. Però sono due cose diverse. Non mescoliamo le cose. Ci sono delle divertenti tradizioni e dei divertenti atteggiamenti che possono essere simpatici. Mi sembra che il sindaco di Colobraro, un nome che peraltro pronuncio con facilità. L'ha detto, il sindaco di Colobraro ha ben utilizzato, insomma, anche la fama negativa, perché pur sempre una fama. Ma vedete, la fama, guardate cosa ci scrive Angelo da Matera, lo dico a tutti, sono di Matera, non sono superstizioso, non sono mai stato a Colobraro, mi è sempre stato severamente vietato dai miei cari. No, dice una cosa triste, esagerato. Una cosa triste, scrive. Quindi è vero, cioè ci sono persone che realmente si lasciano... Questo è il pericolo, secondo me, quando si porta all'estremo un qualcosa di divertente, poi diventa fatalmente orribile, insomma. Ovviamente, ripeto, noi siamo capaci di convincerci del bene come del male. Dobbiamo ipotizzare in un piccolo oggetto in cui catalizziamo il nostro bel pensiero. Pensarci come un portafortuna, ma non è un portafortuna, è un portaconvinzione, direi. Quindi ben venga il corno o qualsiasi altra cosa, se può essere utile a convincersi che qualcosa andrà bene. E purché venga visto anche col giusto distacco, no? Sì, esatto. Non crederci completamente, ecco, diciamo. Non crederci completamente, ma essere aiutato da qualche oggetto esterno. Ma poi, da qualche ambiente. Che sia bello, almeno sul lungomare, questo lo dubito un pochino, ecco. Sì, esattamente. Parliamo di bruttezza e di bellezza, che è più importante. Quella è una questione più controversa, esatto, su quello... Ma per esempio, Alessandro, voi no, Leonardo, gatto nero, cappello sul letto, come state messi? Nero, ho un gatto nero e anche un po' bianco, ecco, è juventino, questo sì mi dà un po' fastidio. E io invece all'ingresso di casa mia non ho il corno, ma un paio di corna, così. Se c'è una scala, se devo passarci sotto perché ci sono i lavori, ci passo, non è che attraverso la strada rischiando di essere tirato sotto per non passare sotto una tu scala. Tu sfidi la sorte, giornalista. Ma non è che la sfido, giornalista, ti ringrazio però. La sfidi, coraggioso. Però, io invece niente cappello sul letto, niente. E il sale a tavola, meglio evitare di passarselo di mano in mano. Mamma questa mia, diciamola, perché si litiga. Oh, ringraziamo Maurizio De Giovanni e il commissario Ricciardi, ovviamente, la sua opera. E ringraziamo Andrea Bernardo, sindaco di Veronica. Va bene. Di quel paese il là, sindaco di tutti i sindaci, là. Sì. No, tra l'altro, un altro ascoltatore dice: invece, io sono stato ad agosto a questo evento. Sogno di una notte più o meno, era così, ed è stato bellissimo, un bellissimo evento. Capite che ognuno poi la pensa a modo suo. Le borse, rientriamo poi. I funamboli. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. E come battizzo? Contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata ti protegge la Madonna dell'Ingororena. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innomineto. Eh signori, un altro mito dopo l'innominetto Lino Banfi, un altro grande. Oggi abbiamo dato poco il numero di telefono, ma è il momento di darlo anche 800 24 0024. Signori! Hai capito? Allora io do la mail funamboli@radio24.it. Va bene. E per gli SMS 349-238-6666. The number of the beast. Exactly. Rimaniamo in tema oggi. Allora, cari amici, è il momento di rispolverare la nostra rubrica. Dovete chiamarci a se ci ascoltate dall'estero. Ricordate, da domani magari riprendiamo anche da Le Shopping. Ah, dove c'era la ragazza, che studiava. Ha detto che aveva una buona pronuncia, allora lo dico. Le Shopping. Grazie di nuovo. E però è il momento invece di rispolverare la rubrica di quando avete fatto i furbi, quella volta in cui l'avete combinata un po' grossina. E oggi guardate che ce n'è uno straordinario che vogliamo raccontare. È il momento di defurbizziamoci. Questa campagna, dobbiamo cambiare questa sigla, Leonardo, facciamo qualcosa. Non te ne fai una ragione. Sembra ogni quattro colpi di mitra. Defurbizziamoci. Per defurbizzarli gli spariamo, esatto. C'è Antonio che ci ha scritto una storia bellissima e che noi quindi abbiamo chiamato. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Come va? Bene. Tutto bene. Sono un po' in riposo perché stanotte devo fare la notte su un infermiere, quindi sono un po' più tranquillo. Che bello. Antonio da Mestre. In che reparto lavori, Antonio? Sono medicina d'urgenza. Ah, quindi anche impegnativo. Ogni tanto vi sento alla notte, perché tra un stacco e l'altro accendiamo la radio. Secondo me è meglio di no, devi essere medicina d'urgenza e ci manchiamo noi. Esatto. No, bello, perché diciamolo, ci potete ascoltare anche sul pod, con il podcast che sta sulle registrate. O sulle registrate, il podcast, esatto. Siamo in diretta Facebook, in video, sulla pagina Radio 24, se vuol vedere Veronica Gentili. Ma quindi fammi capire, so che non c'entra con defurbizzatemi, ma sono quelli in medicina d'urgenza che arrivano al pronto soccorso? Ah, ho capito. Beh, è un lavoro straordinario. Leonardo, sì, stasera utile. Puoi andare lì e presentarti da Antonio. No. Se c'hai bisogno, qualunque cosa, vai lì. Però Antonio ne ha combinata una quando era un po' più giovincello. Allora, spieghiamo l'antefatto. Io ho un fratello gemello mozzigotta, quindi siamo uguali. Già rido. E quindi? Però siamo speculari. Lui tanto era bravo, è bravo negli studi, io tanto bravo nello sport. Sta di fatto che lui giocava a basket sulla squadra del paese, su insieme categorie. Io ero stato comprato da una squadra di Serie A e a livello giovanile. Ah, quindi tu eri quello più forte, diciamo, a basket. Niente, è venuto che c'era la squadra di mio fratello, dovevano giocare il derby al paese. Loro erano la squadra, diciamo, perché erano scontri di classe, perché loro rappresentavano il quartiere povero, mentre l'altra squadra era il quartiere del centro storico. Ma dovevano fare una partita importante, ci tenevano molto, e quindi... E quindi mi chiesero se potevo aiutare lì la furbata a sostituirmi a mio fratello per fare... E tu hai detto di no, perché hai detto sono detto cose no, che non si fanno. No, lo sport ci mancherebbe, c'è un'etica. Allora ho fatto una settimana di allenamento con la destra, perché io sono mancino, per non dare dubbi. Studiata. Allora veniva la partita, abbiamo vinta tranquillamente, quando siamo, e qui viene il bello, in spogliatoio a festeggiare. Sì. Si apre la porta del spogliatoio e chi ti entra? Mia madre. No. L'unica che poteva riconoscersi. E cosa ha fatto tua madre? Non vi avrà denunciato, non me lo dire. Ma ha detto, da buona dirigente comunarda, cioè comunista, ricordati, fa che a casa nostra prima di tutto è l'onestà. E mi tirò una di quelle lecche che il muro mi ha dato una di risposta. Cioè uno sberlo. Cioè, tua madre ti ha defurbizzato lei praticamente. Esatto. Ma grande donna, cioè ti ha preso... Ricordati d'onestà prima di tutto. Ma grandissima, insomma, adesso però, non vogliamo diciamo, fare la morale. Diciamo che non possono essere in molti ad emularvi, perché coppie di gemelli che possono spacciarsi l'uno per l'altra non ce ne sono tante. Insomma, dai. Non abbastanza, a me servirebbe tanto la gemella. Ma il commento di mia madre, e a casa facciamo i compiti dopo questo. Cioè, ma ti sei, e qui lì, vabbè, lì c'è stata la vergogna istantanea di fronte alla mamma. Che... Sì, no. Beh, no. No, era l'ultimo dei problemi. No. Cioè, avevamo vinto il derby. Cioè, l'aveva vinto suo fratello. In pratica. Ma Antonio, ma il vero problema è stato il fratello. Non era frustrato di questa cosa? No, anzi. No, no, ma la vera notizia è... Anche perché mi passava i compiti Ah, certo, quindi si compensava, ognuno nel suo campo. Ma tuo fratello, Antonio, era in tribuna a far finta di essere te oppure proprio... con la tuta della società mia. No, vabbè, ma proprio... Magari un po' anche camuffato per non farsi no, riconoscere. No, ma tanto non... Ma tanto quanto sono vi somigliate? Uguale. Ma nemmeno i compagni di squadra, la gente... No, i compagni sì, ma sì. Gente esterna così, sono due gemelli, se non li conosci bene... Non te ne accorgi, insomma. Vabbè, insomma, Antonio si era messo anche la tuta della società mia, quindi... Appunto, proprio una roba da delinquenti patentati, diciamolo. Tu ti sei allenato una settimana con la mano destra per non far vedere, ma proprio una roba. Scusa, ma tu pur allenandoti con una mano che non era la tua sei diventato comunque più bravo di tuo fratello. Sì, beh, chiaro. Era scarsissimo allora suo fratello non era portato. No, abbiamo... non avevo voglia. Ma possiamo, stare... Antonio, fare invalidare quella partita del 92? Di 45 anni fa. Temo che sia scattata la prescrizione, scatta anche in questi casi qui. E dare la vittoria alla squadra avversaria. Va bene. Che chiaramente sono tutti quanti all'ascolto, stasera ci saranno ritorsioni di ogni tipo. Antonio, sei stato simpaticissimo e per questo, nonostante già ti abbia defurbizzato tua madre, noi ti... Defurbizzato. Defurbizziamo. Ti diamo la patente. Dai, mi piacciono così, la scarica elettrica. È il momento del traffico. Voi scriveteci o chiamateci 800 24 00 24 se vi sentite defurbizzati o defurbizzandi e andiamo al traffico. I funamboli. Allora, sono le 10:49 minuti, cara Veronica, è venuta a trovarci ancora, non lo dico con gioia, ancora l'ascoltatore. Si sentiva. Sì, no, l'ascoltatore Battista. Sono Battista da Cavaglione Veronese, ogni tanto mi piace anche che mi date ospitalità, questa scusi, radio. Ma avevamo detto di fermarlo all'ingresso. No, perché anche è giusto, no, che date un po' di spazio a quelli che non può sempre parlare come voi, no, che state qui a pontificare dentro la radio, qui al gentile e onesta pare, e anche quella donnina, no, anche bisogna da spazio ascoltatori, che parla sempre quei sempre con lo stesso tono, stesso modo di pontificare. Comunque. Ma scusi, ma la trasmissione mica amici, è sua. Ma... Amici di extracomunitari? Sarebbe amici... Milan e Gentili, ma noi le vogliamo talmente bene che guardi, le abbiamo preparato anche per il suo arrivo una sigla che secondo me si addice a questo momento. Perché... Sentiamo la sigla. Del populista. Come piace questa almeno sigla? Perché chi ha fatto la sigla? Quella regia, no? Anche con quella barba e occhiali è Peter Pescapè. Pescapè, non mi piace il Pescapè. Fammi una sigla, no? Perché mette più di dignità, no? Vabbè, adesso dai. Che dà più importanza, non una sigla dei due secondi che sembra anche... Ma che ci deve dire lei? Ma ce lo dica, ma perché è venuto? No, perché dice che io sono populista, no? Ma io non è populista. Io dico che noi paghiamo le tasse in Italia per cosa? Per dare case extracomunitari, per dare case ai negri. Non ho niente contro i negri, diamo anche negri, le case ai negri. Prima però di diventare bianchi. Si devono adeguare al paese che ospita. Anche perché io se vado a Africa col sole divento nero. Ma l'africano che ne è qui con la nebbia non diventa bianco, capisci Gentile? Ma non è l'unico problema. Sta tutto i rotoli andando in Italia. Prima cosa che non va bene è le banche non va bene, no? Tu porti i soldi in banca, ma loro non è che curano i tuoi risparmi, capisci? Non è preoccupati i tuoi soldi. A volte capita che tu porti i risparmi di una vita e non te ne trovi più niente. Ormai quando vai in banca e lasci i soldi in banca non devi chiedere l'interesse, devi chiedere quanto disinteresse c'è, capisci Mina? Tu porti i soldi in banca, dici quant'è disinteresse per i miei soldi? Se dicono 4-5% i lasci, dicono 50% porti via subito. Perché c'è troppo disinteresse, capisci Mina? Hai visto nella prossima hai visto nella prossima legge di bilancia? Cosa hai messo nella prossima legge di bilancia? Bilancia? Che può essere condannati no, quelli che hanno preso i soldi in nero può essere condonati, e condona quelli che hanno preso i soldi in nero, però in cambio compri i titoli di Stato, i botti e i TTT, capisci che non va bene, no? Una volta diceva che il lavoro nero era contro l'interesse del paese, adesso invece lo tiene a gara il paese il lavoro nero, perché compri i botti e i TTT, no? Che ormai ha bisogno degli evasori il nostro paese, capisci? Anche il padovano e il ministro, non mi piace che uno evade e poi compra i botti e i TTT, anche quelli che ti governano è affidabili anche a livello mondiale. E il presidente degli Stati Uniti, come si chiama? È Trump, Tacata Trump, no? Ha mandato i suoi aerei vicino alla Corea del Nord a sganciare le bombe senza esplosivo, è una dimostrazione. Forza, capisci? Quell'altro, presidente della Corea, Kim Jong-un, fa i testate nucleari e poi le butta dentro l'acqua. Uno fa i missili senza esplosivo, l'altro butta i missili dentro l'acqua. Questa è solo una dimostrazione. Forza, per vedere chi ce l'ha più nucleare. È come uno che si riempie di Viagra e poi non va mai a letto con nessuno. Capisci, Mina? Capito. Non sono d'accordo, no? Gli unici Mina. Che va bene, lasciami dire, gentile amica di quell'altro, di Peter Pescapè, gli unici che va bene è i cinesi. Perché va bene i cinesi? Perché ormai è rimasti gli unici che hanno voglia di lavorare, che piace lavorare ai cinesi. Io non so che religione ha i cinesi, ma secondo me i cinesi è una religione che quando muori va in fabbrica dove lavori 8 ore al giorno in paradiso, perché abituati a lavorare 16-20 ore al giorno, quando trova il paradiso che lavori 8 ore sei già un paradiso, capisci, Mina? Questa è la situazione, non come i giovani, e non mi piace i giovani, Mina, che vogliono tutti studiare all'università. La cultura è dannosa e te lo dimostro, è dannosa la cultura. Leopardi ha scritto la poesia del passero e altre, è morto a 30 anni. Jerry Calà è tutta la vita che dice cazzate, sta ancora benissimo, capisci, Mina? La vita è così. Battista, unica cosa che conta nel mondo di oggi è la voglia di lavorare, anche in nero, che poi il ministro Padovan è contento che compri botte e CCT e tiene a gara l'Italia. Ma no, nero no, questo è il pensiero di Battista da Cavaillon Veronese. Ecco, ce lo si è scavato anche stavolta, ma l'avete Veronese. Portato fuori, non ma non è possibile, è la realtà delle cose, è la realtà la delle realtà. Cose Mina, ma lo dovete portare fuori, ma dalla regia, ma che fanno lì? Ma inizia Battista a imparare i nomi, cioè non è difficile, non come ti chiamo, Mina, no? Milan, cosa ho detto io? Anche che devi polemizzare sulla pronuncia, anche no. Perché o cominci a chiamarti Milan o devi scrivere una canzone, cioè, Mina, cantarci Mina, una canzone di Mina, capisci? Mina il nostro Leonardo Manera. Allora, intanto lasciami dire, mettimi la sigla migliore invece degli applausi. Nescafè, Peter Nescafè. Adesso vuole anche le sigle, comanda le sigle. Guardate che c'è Fabio che ci chiama da Roma. Fabio, che ci vuole dire? Buongiorno. No. Ma che vedevo di io? Non lo so. Fabio, che ci devi dire? Da 52 anni, lavoro da quando ce n'avevo 9. Sono uno degli ultimi che è andato a lavorare presto, ma comunque mi sono diplomato. Sì. Ho cambiato tante aziende, perché già 30 anni, 40 anni fa ci dicevo no, bisogna sempre cambiare, perché così non sono riuscito mai a stare più in un'azienda più di 10 anni. E le ho viste andare sempre in peggio, mai in meglio. Ma nessuno, cioè al momento che te tenevano la mano in una marmellata, manco ci pensavano, andavi a casa. Fabio ci parla del dipendente delle poste. Le mani con la marmellata sarebbe non è quello male, che, non che è notevole. Quello che ha rubato è forse, stato in, forse. Che si dice in primo grado che abbia rubato. In no, perché, primo grado no, dicono... Ma il dirigente che doveva effettuare questo licenziamento, dove sta? È fatto il garantista. Ha fatto il garantista, ha detto attendiamo il primo grado di giudizio almeno, l'ha atteso e per questo ha atteso troppo, e quindi il giudice del lavoro ha detto vabbè, ma non riepiloghiamo questa vicenda un po' surreale che abbiamo raccontato all'inizio. Soprattutto non illudetevi che succede a tutti, se rubate 15.000 euro non esatto, è detto che vi reintegrano col tappeto rosso, perché sennò detta così suona male, suona malissimo. Dai, ci dobbiamo fermare, i Funamboli torna domattina alle 9, ma potete ascoltarci in podcast su radio24.it e fate niente. I bravi, soprattutto fate i bravi. Se potete, a domani. La smetta, intervengano i commessi.